Un giorno Filippo irruppe nella modesta stanza in cui stavo leggendo e difendendomi dal caldo per informarmi che avevano saputo che mio padre, il Duca d'Alba e altri suoi sostenitori stavano avanzando con la presumibile intenzione di sbarrarci il passo verso l'interno. Avremmo lasciato la Corugna al più presto. Vedere Filippo ordire le sue trame e comportarsi da re mentre riusciva appena a dissimulare la paura che io usassi il mio potere contro di lui mi riempiva di una strana mescolanza di rabbia e compassione. Mi teneva prigioniera, ma questo non lo risparmiava dal mio giudizio né dalla colpa di trattarmi in quel modo. Io, la madre dei suoi figli, la donna che gli aveva fatto provare passioni e piaceri mai provati con nessun'altra. Lui stesso me lo diceva nel corso delle nostre riconciliazioni. Mi chiamava strega, gatta, puttana, ma noi eravamo due metà che si appaiono con la perfezione con cui il liquido si adatta al vaso che lo contiene. Dentro di sé, lui ammirava la mia ostinata inflessibilità. Le mie ribellioni, il mio amor proprio, gli ricordavano suo nonno, Carlo il Temerario, che era il personaggio della sua famiglia che gli ispirava più venerazione e rispetto. L'idea di possedere una maestà indomabile che nasceva dalla libertà interiore, dal senso di indipendenza che le sue reclusioni non riuscivano a sopprimere. E la conoscenza delle sue debolezze mi stimolavano non so quali fibre contorte del mio essere. Attraverso questi canali ignoti, i nostri scontri alimentavano la passione che, lacerandoci, ci legava come un boa che ci stringeva con forza in un abbraccio circolare spietato da cui né lui né io riuscivamo a liberarci. Lasciammo la Corugna, ci spostammo. E cambiamo direzione in continuazione, dato che, nonostante ci accompagnasse un enorme esercito composto da 2.000 soldati tedeschi e da quasi 1.000 cavalieri del seguito dei nobili, mio padre aveva sparso la voce di imboscate e di assalti. Finalmente Filippo ricevette la notizia che Ferdinando lo attendeva in una vecchia cappella nei dintorni di Via Fafila. Non fu informata di questa riunione. Filippo voleva impedire a tutti i costi che io incontrassi mio padre. I miei ospiti, il marchese di Villena e il conte di Benavente, cercavano di distrarmi per tenermi all'oscuro dei preparativi per l'incontro di mio marito con mio padre. Avrebbero dovuto però sotterrarmi perché non mi accorgessi della tumultuosa partenza di Filippo alla testa di 1.000 cavalieri armati. Dissimulando l'angoscia che mi aveva causato un simile spiegamento di forze, pensai potesse essere il primo passo di una guerra tra suocero e genero. Mi recai di persona dal marchese e gli chiesi spiegazioni. Mi assicurò che non dovevo fare congetture fuori luogo. Si trattava di una marcia, una simulazione, il cui obiettivo era combattere la mollezza e la mancanza di disciplina che si diffondeva tra le file dei soldati tedeschi. Finsi di essere soddisfatta della sua spiegazione, ma dopo quella conversazione non ebbi dubbi sul fatto che mentiva. Mio padre probabilmente si trovava nei pressi e loro non facevano che seguire le disposizioni di Filippo di ingannarmi e di impedire che io lo vedessi. Anche se ero preda della rabbia e oppressa dall'angoscia, dovevo mantenere il controllo di me stessa. Se non avessi agito con prontezza, infatti, avrei perso l'opportunità di incontrarmi con mio padre. Mi aveva insospettito e allarmato che lui non avesse chiesto di vedermi. Ma lo imputai a un nuovo inganno di Filippo. Con un paio di orecchini di smeraldo corruppi uno dei cuochi. Da lui seppi quello che nel palazzo tutti sapevano tranne me. Ferdinando e Filippo si sarebbero incontrati quel giorno a Villa Fafila per firmare un trattato in base al quale mio padre se ne sarebbe andato in Aragona e Filippo avrebbe assunto la reggenza di Castiglia. Più tardi seppi ancora che, in contrasto con la numerosa e ben armata scorta di Filippo, Ferdinando era arrivato con appena 200 cavalieri, elargendo sorrisi e affabilità. Il trattato che firmarono mi defraudava del potere e mi interdiva dal governare, alludendo a problemi mentali che avrebbero potuto mettere in pericolo i sacri interessi del regno. Da parte sua, mio padre accettava di lasciare la Castiglia. E lo fece dopo 2 ore di conversazione a tu per tu con il genero senza aver chiesto prima di incontrarsi con me. Come temeva Caterina, i due uomini si erano accordati tra loro lasciandomi da parte. Ma le cose non sarebbero finite così. Prima del tramonto mio padre avrebbe sferrato un altro colpo basso a Filippo e lo stesso avrei fatto io, mettendo in atto uno stratagemma che alla fine mi permise di uscire per una passeggiata a cavallo con il conte di Benavente e il marchese di Villena. Il mio piano non partiva da una valutazione serena, ma nella mia disperazione fu l'unica alternativa che intravidi. Era il 27 giugno. Faceva caldo, ma soffiava un leggero vento. Una profusione di fiorellini selvatici fiancheggiava i sentieri su cui trottavano i nostri cavalli. Quando raggiungemmo l'aperta campagna, mi sistemai bene in sella e senza indugio spronai il cavallo e fuggii al galoppo. Che piacere provai in quella cavalcata sfrenata. Il volto, il seno, le braccia fendevano il vento come vele tese. La campagna al tramonto, l'odore delle querce e dei pini erano linfa vitale che mi sferzava i polmoni assetati di spazi aperti. Ben presto si spensero i rumori degli zoccoli, dei cavalli dei miei accompagnatori che mi avevano seguito sbigottiti. E andai avanti al galoppo, tirato, sola tra gli alberi, cercando la meta incerta a cui miravo, il luogo in cui si svolgeva la riunione. Il mio cuore sembrava un grosso picchio che mi perforava il petto, ma evidentemente arrivai tardi. Tutto si era concluso ore prima, la cappella era vuota. L'erba calpestata testimoniava il passaggio di molti cavalli. Feci il giro del luogo, gridai il nome di mio padre, non perché servisse a qualcosa, ma per sfogarmi, e infine ritornai in me. Pensai a ciò che sarebbe accaduto dopo la mia fuga, alla dura reclusione che mi avrebbe sottoposto Filippo per punire la mia audacia. Andavo al trotto quando attraversai un villaggio. Senza pensarci due volte, smontai, legai le briglie del cavallo allo steccato di una casa e bussai alla porta. La donna che mi aprì era una contadina, semplice e affabile, dal volto asciutto e dalle mani forti. Mi disse che era una panettiera. Sono la tua regina, la regina Giovanna, le dissi a mia volta. Fammi entrare, dammi un po' d'acqua, una sedia, un rifugio. Mi guardò spaventata, ma fece silenziosamente quello che le avevo chiesto e si sedette accanto a me, guardandomi senza credere alle mie parole, ma senza osare contraddirmi. Aveva appena cominciato a raccontarmi le sue vicissitudini quando udimmo le voci delle guardie e Filippo in persona. Attraversò la soglia della casupola, con le guance accese e un'espressione di stupore sul volto. Aveva un tono ironico, forse perché stava godendosi la buona riuscita della riunione con Ferdinando. Sapeva senza alcun dubbio che le sue parole mi avrebbero umiliata più di un suo accesso di collera. Mi informò, in poche parole, dei termini del trattato, mediante il quale mio padre e lui si sarebbero divisi la reggenza del regno. Disse che entrambi erano d'accordo sul fatto che loro e non io dovessero amministrare le questioni di Stato. Persino il cardinale Cisneros, aggiunse, aveva espresso il suo parere favorevole offrendogli la sua alleanza, poiché in seguito ai miei gesti provocatori ad Alcalá de Henares e a Medina del Campo si era convinto che io rappresentavo un pericolo per gli interessi della corona. Vedendomi abbattuta per quello che diceva, Filippo mi mise una mano sulla spalla chiedendomi di andare con lui. Mi scrollai e dissi di no, no, se voleva che ritornassi a palazzo doveva far venire mio padre, altrimenti non sarei uscita da lì. Io mi ostinavo a pensare che mio padre avesse firmato il trattato ingannato da Filippo. Se mi avesse visto, pensavo si sarebbe reso conto che non ero pazza. Ordinai a Filippo di allontanare le guardie dalla casa della panettiera. Per rispetto della mia ospite, nessuno oltre a lui e a mio padre sarebbero entrati nella casa, disse. La povertà ha senza dubbio un effetto calmante. Troppi colori e lussi nuociono alla sobrietà e stimolano l'orgoglio. Fu forse per questo che Filippo cambiò atteggiamento e mi parlò come un padre tenero a una bambina discola. Per favore, Giovanna, perché ricorrere a questi giochi, a questi estremi, se tutto si può aggiustare senza fare tante storie? La donna ci osservava, i suoi occhi si muovevano come un pendolo dall'uno all'altra, comprendendo tutto. Ormai le mie orecchie erano sorde alle dolcezze di Filippo e lui non disse niente, pur avendo parlato tanto, che potesse convincermi. Per una settimana la casupola di Soledad, come si chiamava la mia forzata ospite, fu il rifugio di una regina. Il villaggio mi nutrì con colombi, conigli e altri alimenti, e pochi giorni dopo mi giunse la notizia che mentre Filippo annunciava con grande risonanza la sua vittoria, il mio incorreggibile e astuto padre aveva sconfessato l'accordo subito dopo aver attraversato la frontiera aragonese, proclamando per tutta la Castiglia che Filippo lo aveva forzato a firmare presentandosi nel luogo con un esercito. Non avrebbe mai acconsentito, diceva il suo proclama, che io fossi privata della libertà e dei diritti che mi spettavano. la corte lasciò il castello di Benavente. Vedendo che non serviva più a niente aspettare, mi congedai da Soledad e a cavallo mi aggregai alla carovana che si dirigeva a Valladolid. Quando Filippo seppe che io mi ero unita a loro, venne a cercarmi. Cavalcammo vicini per un tratto. Non potevo fare a meno di stupirmi di quanto si sentisse padrone di maltrattarmi e di impormi la sua volontà. Si comportava con me come se fossi una giumenta ribelle e lui avesse il compito di domarmi. Mi comunicò che ci saremmo fermati nel villaggio di Mucientes. La mia ultima crisi aveva finito per convincerlo che non c'era da aspettare molto perché le Cortes mi dichiarassero incapace di governare e gli concedessero l'autorizzazione che chiedeva per mettere ordine nel regno. Per amor suo, dei miei figli e di me stessa, dovevo accettare che il suo modo di procedere era il più conveniente per tutti. Il giorno dopo sarebbero arrivati a Mucientes i rappresentanti delle città castigliane e si sarebbero riunite le Cortes, mi disse. Io dovevo promettergli di osservare un certo contegno e di non fare niente che ci facesse ancora una volta sentire a disagio. Con il volto compunto parlò dell'amarezza che gli causava il mio comportamento sconsiderato e imprudente. Lui sapeva bene, riconobbe, che quando ero contenta nessuna donna mi eguagliava in intelligenza e fascino, ma il governo era un compito da uomini. Non dovevo pensare che il caso di mia madre si ripetesse spesso, e anche una grande sovrana come lei comunque aveva sempre potuto contare su un uomo forte al suo fianco. Allora perché io, che avevo accanto non uno ma due uomini in grado di governare, non cedevo volontariamente e lasciavo che fossero loro a occuparsi degli affari di Stato? Gli risposi che secondo il mio modo di vedere né lui né mio padre riuscivano a mettersi d'accordo. D'altra parte, io ero disposta ad accettare che governassero come figlia e sposa obbediente quale ero, ma non potevo consentire remissivamente che per fare ciò che volevano avessero deciso di dichiararmi pazza e incapace e mi trattassero come una persona priva di senno. Doveva inoltre sapere, gli dissi, che ero incinta del suo sesto figlio. Mi addolorava che fosse tanto meschino nei riguardi di chi si assumeva il peso di assicurargli la discendenza. Fece una faccia contrita per un istante, ma poi tornò a rivolgersi a me ripetendomi di comportarmi giudiziosamente e di non frappormi più sulla sua strada. Detto ciò, spronò il cavallo e ritornò al fianco di Fuensalida. Lo vidi allontanarsi e pensai, trattenendo la rabbia, che mi sarei di certo comportata giudiziosamente. Solo che ciò che questo significava lo intendevamo entrambi in maniera differente. Nella chiesa di Mucientes si organizzò tutto per la riunione delle Cortes, che avrebbe avuto luogo il giorno seguente al nostro arrivo. Io avevo una sola dama al mio servizio, Doña Maria de Ulloa. Era una donna matura, di poche parole. Nonostante le mie diffidenze iniziali, con le sue opinioni misurate, la costanza e le maniere dolci, era riuscita ad attenuare l'ostilità preconcetta che nutrivo verso di lei. Per la mia presentazione davanti alle Cortes, Doña Maria mi aiutò a indossare uno dei magnifici abiti di broccato e merletto del corredo da regina che avevo portato con me in Castiglia, mi intrecciò i lunghi capelli neri e fermò la treccia con un diadema di perle e diamanti. Avere un aspetto maestoso era importante per i miei progetti. Fui soddisfatta di verificare, guardandomi allo specchio, la regalità e la grazia della mia figura. Entrai nel salone sotto braccio a Filippo. Mentre camminavo, ricordai il portamento di mia madre e i consigli di Beatrice Galindo sul fatto che le principesse dovevano sempre avere le spalle dritte. I rappresentanti delle città si alzarono simultaneamente. Presi il mio posto, contenta di vedere tra di loro l'ammiraglio castigliano Fadrique Henriquez, mio vecchio amico, e Pedro López de Padilla, fedele cavaliere di mia madre. La seduta iniziò con formule di cortesia, cui seguirono molti preamboli nei quali furono tirati in ballo i termini del trattato di Biglia Fafila. In base alle argomentazioni di Filippo e di Dever, suo consigliere, mio padre e mio marito avevano convenuto che sarebbe stato meglio per la sorte del regno che io delegassi Filippo a governare la Castiglia, considerando che l'instabilità della mia salute e la mia scarsa inclinazione per le questioni di Stato avrebbero influito negativamente sui miei stessi interessi di regina. Si trattava quindi di accettare Filippo come re effettivo al posto della consorte per procedere poi con il giuramento ufficiale a Valladolid. Ascoltai i discorsi che si scambiavano i presenti sulle mie attitudini a regnare e sulla convenienza di quella proposta. Mi rese furiosa vedere in quella sala tanti uomini che decidevano la mia sorte, come se un potere naturale li avesse investiti di una saggezza superiore alla mia, o a quella di mia madre, quando aveva deciso di nominarmi suo erede. Avrebbero di certo ceduto alle richieste di Filippo, ma a un tratto, dopo averli a lungo ascoltati, sentii di averne abbastanza. Mi alzai sotto i loro occhi, mi diressi al centro della stanza, li guardai a uno in viso, poi a voce alta domandai se mi riconoscevano come Giovanna, la figlia legittima della regina Isabella la Cattolica. Che mi guardassero bene, gli chiesi. Chi ero io se non colei che la grande Isabella aveva scelto come sua erede? Reagirono, come se si svegliassero da un sogno. Sì, vi riconosciamo, maestà, disse colui che era capo delle cortes con una riverenza. Dato che mi riconoscete, dissi, vi ordino di andare a Toledo, dove giurerete fedeltà a questa regina di Castiglia, e io giurerò di difendere le vostre leggi e i vostri diritti. Ignorate forse che mio padre ha sconfessato il trattato di Vigliafafila, cui ha fatto riferimento il signor arciduca? Si scatenò un dibattito frenetico. Le voci rimbalzavano un lato all'altro della sala. Dicevano che, dato che io affermavo il desiderio di essere riconosciuta, era loro dovere darmi ascolto e conoscere la verità, e facevano notare che mio padre si era astenuto dal ratificare il trattato di Vigliafafila, anzi lo aveva rinnegato, avendolo firmato sotto la pressione delle armi. Infine mi chiesero un'udienza privata che concessi immediatamente. Dichiarai che li avrei attesi nel chiostro del monastero. Detto questo, mi ritirai e sentii alle mie spalle lo sguardo infuocato di Filippo, umiliato. Poche ore dopo, i rappresentanti delle città si presentarono con molto garbo davanti a me, facendo grandi riverenze. Alcune delle loro domande erano logiche e necessarie. Per esempio, mi chiesero se desideravo governare sola o se volevo assegnare prerogative speciali a mio marito. Altre invece erano stupide, dettate da chissà quali vanità, come il chiedermi se ero disposta a vestirmi alla moda spagnola e a includere nel mio seguito una maggiore quantità di dame. Risi di fronte a queste preoccupazioni. Li rassicurai sullo stile dei miei vestiti e gli dissi che era compito mio decidere quante dame e chi mi serviva e non competeva per niente a un consiglio del regno. Ribadii che volevo che fosse mio padre e non Filippo a governare assieme a me fino alla maggiore età di mio figlio Carlo. Se ne andarono, apparentemente soddisfatti, ma Filippo, assieme a Cisneros, ritornò alla carica il giorno dopo, ribadendo la mia inidoneità a regnare, dicendo che la luna piena mi trasformava, che loro non potevano giudicare il mio stato di salute in così poco tempo. Fu così che le Cortes designarono l'ammiraglio di Castiglia a decidere, dopo un'altra più lunga udienza con me, lo stato reale del mio cervello. Mi riunii con Don Fadrique per 10 ore, 10 ore veramente molto piacevoli, durante le quali lui si comportò come un padre e ascoltò con il volto afflitto la storia degli affronti che avevo subito. Avrebbe fatto il possibile, mi disse, ma dovevo sapere che nuotavo in un mare infestato di squali che mi avrebbero sbranata se non misuravo bene i miei passi. Di fronte agli altri, Don Fadrique respinse l'idea della mia incapacità. Disse che era un inganno affermare che io non ero sana di mente. Rinunciai a chiedere che le Cortes si trasferissero a Toledo e finalmente decisero di procedere con la cerimonia di incoronazione a Valladolid. Avevo ottenuto che accettassero di proclamarmi regina. Filippo e io sfilammo a cavallo per le vie della città, gremite di gente venuta ad acclamarci. Lo stendardo dei regni di Castiglia e León ondeggiava solamente di fronte a me, Giovanna di Castiglia. Fui ancora una volta magnanima, oppure schiava di un amore incrollabile. Durante la cerimonia dell'incoronazione accettai di condividere il titolo con Filippo, quale legittimo sposo della regina. Lui sfuggì così alla sorte di mio padre, il cui mandato derivava dall'autorità della sua sposa. Nonostante ciò, Filippo non desistette dal suo proposito di destituirmi. Aveva nominato suo primo consigliere il cardinale Cisneros, sempre convinto che io fossi un ostacolo per la gloria della Spagna. Non passava giorno senza che Cisneros e Gomez de Fuensalida cospirassero per tendermi il tranello con cui speravano di mettermi fuori gioco. Intercettarono una lettera che avevo scritto a mio padre, in cui chiedevo la sua presenza al mio fianco. Tennero delle riunioni con Don Pedro López de Padilla e lo spinsero a non darmi più il suo appoggio. Poi pressarono Filippo affinché ci recassimo a Segovia, dove la marchesa de Moya si rifiutava di consegnare l'Alcazar a chiunque tranne che a me. Erano disperati. I nobili sulla cui fedeltà contavano minacciavano quotidianamente di passare dalla mia parte. Il viaggio a Segovia obbediva alla volontà di Filippo e dei suoi consiglieri di portarmi all'Alcazar, che era una fortezza, e di lasciarmi confinata lì perché non ostacolassi più i loro piani. Per me quei giorni furono terribili. Mi veniva negato l'uso dell'autorità, nel momento stesso in cui mi veniva riconosciuta, io ero il pomo della discordia pieno di vermi. Ero circondata da sguardi ostili, temevo per la mia libertà, per la mia vita, non sapevo quali amici potessero trasformarsi da un momento all'altro in nemici. Filippo, a seconda del suo stato d'animo, mi trattava come una figlia mentalmente alienata e indifesa o come una nemica giurata. Donna Maria era il mio unico rifugio, ma nemmeno di lei osavo fidarmi completamente. La notte non riuscivo a dormire, temendo di svegliarmi reclusa sotto chiave. Soltanto durante quell'intempestivo viaggio a Segovia riuscii a riposare alcune ore, quando ci accampammo all'aria aperta. A Cojeces del Monte, dove arrivammo al tramonto, ci sistemammo nel monastero di Larmedilla. Qualcosa però nell'espressione di Filippo, nel modo teso e ossequioso con cui mi parlò dei preparativi perché trascorressi un periodo di riposo nel monastero dei frati Gerolamini, mi portò a sospettare che si preparava come un gatto a darmi un'altra zampata. Che mi considerassero ancora una volta pazza, pensai, ma nessuno mi avrebbero fatto passare la notte dentro quelle mura. Sorrisi beatamente e dissi che avrei fatto una cavalcata nei dintorni mentre la corte e i soldati si sistemavano nei propri alloggi. L'esercizio fisico avrebbe fatto bene ai miei nervi. Cojeces era situata in un paesaggio privo di vegetazione. La pianura era interrotta da monumentali formazioni rocciose e da aree in cui sgorgavano ruscelli tra boschi di conifere. Filippo scelse un soldato tedesco per farmi accompagnare. Era un uomo sdentato, dall'aspetto feroce e da barbaro, ma l'apparenza nascondeva una persona gentile e discreta, che si tenne cortesemente a una certa distanza mentre io cavalcavo a mio agio per i sentieri che salivano lungo i pendii rocciosi. Io sapevo quanto sarebbe stata lunga quella notte. E dopo aver galoppato un po', fermai il cavallo vicino a un ruscelletto che forniva d'acqua il luogo e senza smontare contemplai il tramonto del sole. Quando si fece buio, il soldato mi avvertì che dovevamo ritornare al monastero. Io gli risposi che ci andasse lui, perché io avrei passato la notte lì. Questo lo disorientò. Eravamo troppo lontani per lasciarmi sole e andare a riferire l'accaduto. Sarebbero venuti a cercarci, gli dissi. Non doveva preoccuparsi. Provai pena vedendo il suo volto da contadino impaurito come un bambino. Il fatto che parlassi la sua lingua mi aveva fatto guadagnare il suo rispetto. Avviammo una conversazione in cui mi parlò della moglie, della sua coltivazione di orzo in Baviera, e intanto mi ripeteva spesso che dovevamo ritornare. Come avevo supposto, presto sentimmo rumore di zoccoli di cavallo. Fummo raggiunti dai messaggeri di Filippo che mi ordinava di ritornare alla Armeria. Io però smontai, legai il cavallo a un albero e mi sedetti su un tronco reciso a guardare le stelle, mentre il mio soldato continuava a muoversi confusamente, non sapendo che cosa fare. Si stava ripetendo la scena della casa della panettiera a Biglia Fafila, solo che questa volta si svolgeva all'aperto. Non sapevo quante notti avrei dovuto rifiutarmi di entrare nel monastero, ma era estate, si stava bene nella frescura del pineto. Per fortuna questa volta la sorte mi favorì. Quella mattina avevano mandato a dire da Segovia che Gomez de Fuensalida era riuscito a entrare nell'Alcazar, per cui non c'era più motivo di proseguire il viaggio. Filippo mi mandava a dire che saremmo andati a Burgos, al palazzo del conestabile di Castiglia, sposato a Giovanna d'Aragona, la figliastra di mio padre. Mi ricongiunsi alla carovana. La notte passata alle intemperie mi fece ammalare e fummo costretti a fermarci a Tudela del Duero fino alla guarigione. Si temeva che proseguendo il viaggio si sarebbe potuta mettere in pericolo la mia gravidanza. Arrivammo al palazzo di Giovanna d'Aragona quasi 2 mesi dopo, in settembre. Desideravo vedere la mia sorellastra e il suo bel palazzo progettato da Simon de Colonia, dove mia madre aveva un giorno ricevuto l'ammiraglio Cristoforo Colombo. Quell'insolente di Filippo, però, accettò l'ospitalità a condizione che lei e il marito, Don Bernardino Fernandez de Velasco, si trasferissero in un altro posto. Temeva la presenza di una coppia tanto devota a mio padre che si sarebbe presa cura di me alimentando la mia ribellione. Non so che genere di trattativa misero in atto Gomez de Fuensalida e il conestabile di Castiglia sul palazzo che senza alcuno scrupolo Filippo usurpò. In base a ciò che seppi più tardi, il buon conestabile glielo cedette a patto che non mi privassero della libertà. Questa arbitraria disposizione di Filippo mi colpì in modo tale che mi sentii svuotare il cuore dell'amore che per tanti anni mi aveva esaltato e prostrato nei suoi alti e bassi. Caddi in preda a una profonda depressione e l'unica energia che mi animava derivava dalla rabbia sorda che ardeva nella fucina del mio petto. Mi ritrovai a invocare i poteri di Dio e del diavolo contro Filippo. Mi bastava sentire la sua voce perché l'odio scorresse per il mio corpo come un fiume torbido in cui a volte temevo che annegasse il figlio che portavo in grembo. Impossessatosi del palazzo, Filippo, assieme ai suoi consiglieri, decise di allietare i nobili che lo appoggiavano e le truppe, offrendo per diversi giorni di seguito feste, banchetti, tornei e battute di caccia. Voleva attenuare le tensioni che ci portavamo appresso, dato che gli abitanti che erano stati generosi con la nostra comitiva in tutto il regno si erano stancati di mantenerci e degli alti contributi che dovevano versare per alimentare, vestire e pagare i salari di tanti stranieri. E come se non bastasse, era ricomparsa la peste e si era sparsa la voce della morte di contadini e di animali nelle località vicine. A prescindere dall'odio che mi velava gli occhi, ricordo l'euforia e la bellezza di Filippo il terzo giorno di festa, quando decise di venire in camera mia per dirmi che avrebbe pensato a me quando la sua lancia avesse attraversato il cinghiale che si proponeva di cacciare quel giorno. Pieno di boria, esuberante, con la cotta di maglia, calzoni a mezza gamba, tunica verde, sulle calze scure e alti stivaletti di cuoio, si fermò accanto alla finestra e mi guardò con disprezzo. Mi disse: "Guarda in che cosa ti hanno trasformato i tuoi compatrioti, in una regina austera vestita di nero come tua madre." "Questo colore mi si addice," gli dissi. "Tu hai ammazzato il rosso dei miei vestiti e del mio animo." Quella sera riportarono Filippo ridotto a uno straccio. Durante la caccia era caduto, preso da un capogiro. Lui, che appena poche ore prima era apparso arrogante e in buona salute, ora tremava, scosso dalla febbre e sudava come un rematore. Fu un attimo. Vederlo soffrire e pendere dalle mie labbra e dai miei occhi in preda all'angoscia mi fece uscire di senno. Mi sentii colpevole, vile per aver desiderato tanto intensamente la sua rovina. Ordinai che lo sistemassero nel mio letto, che mi portassero dei panni bagnati. Nessuno mi trattò come una pazza mentre predisponevo il necessario per guarirlo. Mi obbedivano, senza opporre resistenza, anche i medici e i consiglieri. Filippo sembrò rassicurarsi vedendomi padrona della situazione. Per 5 giorni quell'uomo, il mio uomo, si affidò a me come un bambino con la madre. Lo cullai, gli cantai canzoni, gli pulii le piaghe purulente, gli inumidii molte volte, notte dopo notte, le labbra che la febbre seccava. Il mio povero Filippo, i suoi occhi, che avevano fatto tanta strage del mio cuore, si accendevano d'amore quando avvicinavo il mio volto al suo. Quante parole tenere mi disse, quante volte mi chiese perdono per i suoi soprusi e la sua ambizione, e quanto mi parlò dell'amore che sentiva per i suoi figli, per il mio sesso fecondo. Io gli giuravo che non avrei permesso che gli succedesse niente di male. Doveva essere forte, gli dicevo, non poteva lasciare che la peste consumasse quel corpo che io amavo tanto. Eravamo giovani, avremmo potuto ricomporre la nostra vita, il nostro amore, regnare in pace, in armonia. Gli chiedevo di non tormentarsi con i rimpianti di ciò che avrebbe potuto essere. Non ho mai amato nessuno come te, Giovanna. Nessuno ha potuto sostituirti nel mio cuore. Non c'è donna che abbia la curva delle tue braccia, del tuo collo, l'arco scuro dei tuoi capelli sulla nuca. Nessuna ha palpitato come te ai miei baci. Nessuna è stata più vera e ha tollerato più di te la mia stoltezza e la mia vanità." Ah, pensai. Se la vita ci avesse dato la saggezza della morte. Accanto al corpo devastato dell'uomo che aveva fatto germogliare i suoi figli dentro di me, come spiriti riflessi in uno specchio appannato, vidi scorrere le immagini dei nostri incontri e dei nostri allontanamenti. Mi aggrappai alla sua vita, rifiutandomi di accettare che potesse estinguersi come le migliaia di candele che si consumavano una dopo l'altra nella stanza in penombra. Piena di odio verso il Dio dei miei genitori, che mi ascoltava intransigente, pregai disperatamente altri dei più compassionevoli dei che io inventavo in Olimpi immaginari, ma fu tutto inutile. Al quinto giorno di febbre, Filippo spirò tra le mie braccia. Era il 25 settembre del 1506. Filippo aveva soltanto 30 anni.